24, i gialli della storia. Siete stati voi a provocare questo sconvolgimento e adesso dite no, scusateci, fidatevi. Nel cuore della crisi finanziaria, Wall Street è stata salvata e la gente comune è rovinata. E com'è stato possibile arrivare fin qui? Le altre banche hanno preso a prestito le stesse idee e le hanno messe in pratica. Una volta iniziata non c'è stato più modo di arrestare questa avanzata. Non stavano facendo niente di particolare. Si erano accollati il rischio e aspettavano. Quei rischi poi tornavano come un boomerang. L'avevano trasformata in una specie di Frankenstein. Soldi, potere e Wall Street. Wall Street 2008, tutto comincia nel luogo simbolo del capitalismo. In pochi mesi le borse di tutto il mondo bruciano migliaia di miliardi di dollari. Falliscono grandi banche private, vanno in fumo i risparmi di milioni di piccoli investitori e la disoccupazione tocca livelli record. È esplosa una gigantesca bolla speculativa e il mondo occidentale comincia a familiarizzare con le parole come ETC Found. E soprattutto con i famigerati derivati, una delle cause principali del crack. Ben presto sul banco degli imputati finiscono gli operatori dei mercati finanziari, ma anche i politici colpevoli di omesso controllo e poi di averne adottato formule di salvataggio inadeguate. E mentre l'intero sistema sembra avviato al collasso, esplode la rabbia della gente incarnata dal movimento Occupy Wall Street. Quello che racconteremo in questa settimana Mix 24 è un itinerario nella grande crisi che ha colpito il sistema economico americano. Un vero e proprio crollo che ha avuto ricadute in tutto il pianeta e di cui stiamo ancora pagando il prezzo. In questa puntata sentiremo le testimonianze degli agenti della JP Morgan che hanno concepito il sistema finanziario che poi è esploso, gli operatori del settore finanziario, le voci dei politici che lo hanno difeso e quelli che lo hanno contestato e poi i risparmiatori, quelli che hanno subito maggiormente il peso di questo tragico errore di valutazione. Ogni giorno migliaia di pendolari si mettono in viaggio verso Wall Street. Lavorano nel settore bancario, delle compagnie d'assicurazione o dei prestiti ipotecari. Sono dei broker o si occupano di hedge fund. È il secondo mercato dell'economia americana. È il settore che ha fatto precipitare l'America e il mondo intero nella più grave crisi finanziaria dall'epoca della Grande Depressione. Le banche sostengono che il loro ruolo sia creare ricchezza occupandosi della gestione fiduciaria del valore collettivo e promettendo di investire le migliaia di miliardi di dollari prodotte dalle attività commerciali, dai fondi pensionistici e dai conti di risparmio che appartengono ai risparmiatori. Autunno 2011. Una mattina, al loro arrivo a Manhattan, molti impiegati di banca vengono colti di sorpresa. La recessione ha bruciato 11.000 miliardi di dollari del reddito netto americano. E il movimento Occupy Wall Street dà la responsabilità alle banche. La gran parte degli americani è convinta che Wall Street sia stata salvata, mentre loro sono stati rovinati. Abbiamo un tasso altissimo di disoccupazione. Abbiamo perso 8 milioni e mezzo di posti di lavoro. Le case non hanno più lo stesso valore. Molti neolaureati devono tornare a casa dei genitori. In realtà è abbastanza evidente che ci fosse un'illegalità diffusa. Secondo me non c'è alcun dubbio. Se qualcuno in possesso della competenza legale per aprire un'inchiesta avesse voluto farlo, sarebbe riuscito ad avviare un procedimento penale. In poche settimane le dimostrazioni di Occupy Wall Street dilagano in tutta l'America e nel mondo. L'obiettivo è sempre lo stesso, un cambiamento radicale del sistema bancario. Le banche rispondono dicendo che la soluzione è voltare pagina e rimettersi al lavoro. Alcune delle nostre società hanno compiuto una serie di terribili errori. che tutti noi abbiamo pagato caro e che hanno portato alla crisi economica. La gran parte della gente che è lì in strada a manifestare con Occupy Wall Street è arrabbiata perché l'economia non si è ripresa, mentre le banche sì. Se vogliamo un'economia più forte, è necessario che le società che erogano servizi finanziari siano sicure, solide e capaci di finanziare e di concedere prestiti ai propri clienti. Se vi piace la recessione, scagliatevi contro le banche e fate in modo che falliscano, così avrete un'altra congiuntura. Lei ha capito perché sono tanto arrabbiati con le banche? Si è pentito del modo in cui sono stati spesi i soldi dei contribuenti? Dal 2008, da quando cioè è collassato il sistema finanziario, ci sono state decine di inchieste. Siamo costernati che i cittadini abbiano perso il loro denaro. Qualunque cosa abbiamo fatto, indipendentemente da quali fossero le procedure dell'epoca, non ha funzionato. Vorrei chiederle cosa ne pensa del ruolo che hanno giocato i derivati OTC. Gli interrogativi sono molteplici. Nel contribuire alla crisi finanziaria. Ma le risposte soddisfacenti pochissime. Diciamo che tutto sommato è abbastanza semplice. Secondo me i nostri organi di controllo e il settore bancario dovrebbero affrontare il problema nella sua complessità. Chissà perché ci è sfuggito che i prezzi delle case non possono salire per sempre. Cos'è un CDO sintetico? Un CDO è un insieme di beni. Secondo me la finanza è diventata troppo difficile da capire per chiunque. Che vengono raccolti per poi poter essere frazionati. In una obbligazione sintetica, invece, si costruisce un portafoglio di titoli di riferimento indicizzati ai mutui. Ai manager di questi grossi istituti finanziari è stato affidato un compito impossibile. Non saranno mai in grado di comprendere il lavoro degli stessi istituti che dirigono. E questo fa molta paura. Siete stati voi a provocare questo sconvolgimento e adesso dite: oh no, scusateci, fidatevi. Siete stati voi a creare le obbligazioni sintetiche, voi che avete creato i credit default swap inesistenti fino a pochi anni fa. Chi è stato il genio che è arrivato e ha detto: inventiamoci credit default swap, trovatelo e poi licenziatelo? È difficile risalire alle origini della crisi finanziaria americana. Forse però si potrebbe iniziare da un fine settimana in questo resort a Boca Raton, in Florida. È qui, nel giugno del 1994, che si dà appuntamento a un gruppo di banchieri della J.P. Morgan, in apparenza per una riunione del tutto innocente. I giovani leoni della J.P. Morgan non si fanno mancare il divertimento, ma neanche il lavoro. Tutto il loro impegno è concentrato su un interrogativo vecchio quasi quanto l'invenzione delle banche: come ridurre il rischio. La prima giornalista ad aver raccontato quanto successe a Boca Raton è Gillian Tett. Si sono messi a cercare degli espedienti per permettere agli istituti finanziari di passarsi il rischio tra loro. Una soluzione era vendere i prestiti. Un'altra prevedeva di separare il rischio di fallimento dal prestito stesso. E da qui è nata l'idea di creare i credit default swap. I credit default swap sono dei derivati sul credito che assicurano il prestito contro il fallimento. Un concetto assolutamente nuovo. Di norma i prodotti derivati sono un modo per scommettere sul futuro valore di qualcosa. Da centinaia di anni gli agricoltori scambiano derivati per proteggersi contro le oscillazioni dei prezzi dei raccolti. È un genere di derivati scambiato sulla borsa merce di Chicago insieme ai futures sui carburanti, sulle valute e sui metalli preziosi. A Boca Raton, il gruppo di J.P. Morgan capisce che quei derivati potrebbero essere usati per scambiare il loro rischio di credito. Le banche hanno preso a prestito una serie di idee messe a punto sul mercato delle materie prime e per la prima volta le hanno applicate al settore dei prestiti. E tutto questo con l'intenzione di rendere più sicuro il sistema finanziario. Il primo credit default swap importante viene strutturato da Blight Masters per la Exxon. La Exxon era nostro cliente e grazie a questo rapporto aveva un'esposizione creditizia nei confronti della banca. La Exxon Valdez ha perso oltre 41 milioni di litri di petrolio nel mare del Prince William Sound. Sulla scia del disastro petrolifero della Exxon Valdez e di una lunga serie di cause legali, la Exxon ottiene una lettera di credito di diversi miliardi di dollari dalla J.P. Morgan. Ha emesso 5 capi d'accusa. Una lettera di credito genera un rischio di credito. Se la Exxon non fosse riuscita a onorare i propri obblighi finanziari, la J.P. Morgan sarebbe dovuta intervenire per pagare il debito al suo posto. Si trattava di un'esposizione di notevoli proporzioni, a cui si associava un rischio significativo. E quel rischio limita notevolmente le risorse di una banca. Quando una banca concede un prestito, le normative la obbligano a tenere ferme determinate quote di capitale variabili a seconda dell'entità del prestito. La JP Morgan, concedendo il credito alla Exxon, avrebbe dovuto mettere da parte un po' di capitale. La JP Morgan doveva tenere ferma una certa quota di capitale calcolata sulla base del prestito, qualora quel prestito non fosse stato ripagato come previsto. È ovvio però che se una banca non è obbligata, preferisce non farlo. Così può continuare a finanziare più liberamente e a creare più debito? Esatto. Blythe Masters quindi inizia a cercare qualcuno che possa assumersi il rischio di debito della JP Morgan e svincolare il capitale della banca. Trova così una controparte a Londra, la EBRD, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. La EBRD avrebbe ricevuto un compenso da parte della JP Morgan per il rischio di credito. Per loro era un buon compromesso rischio-rendimento. In questo modo il rischio veniva disperso. Ma perché lo abbiamo fatto? Perché volevamo liberare la nostra liquidità per impegnarla in ulteriori investimenti. È una novità finanziaria senza precedenti. I derivati sul credito consentono alle banche di aggirare i requisiti patrimoniali. È proprio a questo che sono serviti. La quota capitale che le banche avrebbero dovuto accantonare si è ridotta. Così si è riusciti a creare sempre più credito e a erogare sempre più prestiti. L'operazione Exxon è soltanto l'inizio e dimostra che il rischio può essere ceduto a terzi e il capitale svincolato. La JP Morgan ha scoperto la gallina dalle uova d'oro. Nel 98 la banca decide di incrementare le proprie attività sui derivati creditizi. Sempre nel 1998 alla squadra si unisce un'altra giovane bancaria, Terry Duyon. Parte del mio lavoro come trader consisteva nel creare un portafoglio per i derivati creditizi e occuparmi della gestione del rischio dei prodotti più esotici. Per questo ero stata assunta. Fino a questo momento la JP Morgan ha venduto dei credit swap su singole società come la Exxon. A Terry Duyon viene dato l'incarico di strutturarne di nuovi su dei panieri di debito. La prima operazione di Terry Duyon è un credit default swap su 306 società presenti nei portafogli di negoziazione della JP Morgan. E in quella lista c'erano 306 entità con un rating alto e un bassissimo rischio di credito. Erano tra le società più note. Stavamo quindi dando agli investitori l'opportunità di investire a tutti gli effetti nel nostro portafoglio crediti. Con la storia della crisi Wall Street e di come si è originata, riprendiamo dopo la viabilità. Mix 24, i gialli della storia. Bentornati all'ascolto di Mix 24. Stiamo raccontando com'è andata la crisi finanziaria che ha investito l'America nel 2008. L'idea di capitalizzare i rischi che nascono dai derivati viene a un gruppo di giovani operatori di JP Morgan nel 1994 e questa geniale trovata viene presto abbracciato anche da altri istituti e banche che la JP Morgan coinvolge direttamente o indirettamente. E presto il meccanismo della frantumazione del debito si sposta anche sui mutui per l'acquisto delle case. La JP Morgan rende il portafoglio ancora più facile da gestire, suddividendolo in vari livelli o tranche di rischio. Gli investitori possono così scegliere quanto rischio sono disposti ad assumersi. La richiesta del rischio dipendeva dagli investitori. Alcuni volevano avere un grosso ritorno su prodotti ad altissimo rischio. Altri preferivano avere un ritorno inferiore, ma prodotti che non implicassero rischi. Partendo da qui, la JP Morgan cerca un modo per incrementare le proprie operazioni. Ed è venuta fuori un'idea. Perché non creare un mercato in cui la gente potesse comprare e vendere liberamente e indipendentemente dalle società stesse il rischio associato al credito concesso a quelle società? La JP Morgan inizia così a vendere derivati che sono semplici scommesse su un qualsiasi portafoglio, sia esso di proprietà della banca oppure no. Tali prodotti sono conosciuti come obbligazioni di debito sintetico collateralizzato, o CDO sintetici. C'erano investitori che riuscivano a investire su alcune entità a cui in precedenza non avevano potuto accedere. Comprando un credit default swap. Investendo in un credit default swap, perché era qualcosa a cui prima non avevano accesso. Il mercato quindi si è rafforzato molto ed è cresciuto. In modo molto naturale. Una volta dato il via non c'è stato modo di arrestare questa avanzata. Per il settore bancario è l'alba di un nuovo giorno, pieno di promesse e libero da vincoli. La maggior parte di quanti alla JP Morgan fanno parte del Global Derivatives Group ha tra i 20 e i 30 anni, anche Blight Masters e Terry Duyon. Ma con la creazione del mercato dei credit default swap, questi giovani fanno la storia del settore bancario. A lungo termine, tutto questo significava che il credito, che è una componente vitale della vita di qualsiasi economia, dell'economia globale direi, è diventato un bene sempre più facilmente accessibile. E l'opinione generale era che si trattasse di una cosa indubbiamente positiva. Il credito contribuiva a stimolare la crescita economica, aiutava le società a impegnare i propri capitali, produceva posti di lavoro e via dicendo. Non era più soltanto un'idea nata tra quattro pareti in Florida, era la nascita di un intero mercato. Ma la novità ancora più importante è che si tratta di un mercato privato, non regolamentato e nascosto. Le banche boicottano qualunque iniziativa per regolamentare il mercato dei derivati. Le banche non volevano che si sapesse quanto stavano rischiando, non volevano metterlo nero su bianco sui propri bilanci, volevano nascondere il problema, perciò hanno fatto di tutto perché gli swap e i derivati fossero trattati con misure diverse rispetto agli altri prodotti finanziari. Qualcun altro propone di regolamentarli come fossero assicurazioni. Tra i prodotti più soggetti a una rigida regolamentazione nel paese ci sono le assicurazioni, per ragioni piuttosto ovvie. Se vuoi stipulare un'assicurazione, devi avere soldi a sufficienza per pagarla. E con un credit default swap non è necessaria la stessa quantità di denaro? Non è necessario avere niente, soprattutto non ci sono obblighi informativi. Sta dicendo che è una specie di polizza assicurativa sottobanco che sfugge a qualsiasi regola? È un prodotto assicurativo concepito per non essere regolamentato come un prodotto assicurativo, anzi che è strutturato per evitare ogni forma di regolamentazione. Quello che succede è che quando viene ideato un prodotto che ha una scarsa regolamentazione, il capitale e l'attività si muovono in quella direzione e aumentano in modo sensazionale. La regolamentazione delle transazioni sui derivati che vengono negoziate in via privata da professionisti non è necessaria. Il presidente della Fed, Alan Greenspan, si schiera al fianco delle banche. Ostacolerebbe l'efficienza dei mercati. Alan Greenspan veniva da una tradizione decisamente libertaria. Giù le mani da tutto. I mercati se la sbrigheranno da soli. E se c'è un problema, ci penseranno dopo a fare ordine. Questo è il modo in cui la Federal Reserve ha operato sotto la sua presidenza durata quasi 20 anni. Al Senato americano, i sostenitori della deregolamentazione delle banche fanno un accorato appello. È in gioco il futuro del predominio dell'America come centro finanziario del mondo. La minaccia è un progetto di legge per allentare le restrizioni imposte alle attività delle banche. Se non passerà questo disegno di legge, la nuova capitale finanziaria del mondo potrebbe diventare Londra, Francoforte o Shanghai. Questo disegno di legge renderà l'America più competitiva sul mercato mondiale. E una legislazione per impedire il controllo dei derivati sul credito. Non solo a Wall Street, a New York, ma ovunque in America, e porterà beneficio a tutti i consumatori del paese. E questo lo potremo ottenere solo abrogando la Glass-Steagall. Le banche iniziano ad ingrandirsi sempre di più, mentre i derivati restano nell'ombra. Il mercato dei derivati era entrato nella clandestinità. Praticamente non esistevano né trasparenza né regole e di conseguenza la loro crescita è esplosa sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo. Le banche vincono la partita. I credit default swap sono introdotti sui nuovi mercati. Il passo successivo è stato applicare questo nuovo sistema al portafoglio di rischio nel credito al consumo e in particolare nel rischio del credito legato ai mutui. Maggiore è il rischio, meglio è. L'obiettivo di tutti era creare un prodotto che avesse un rating alto e un alto rendimento. Era come cercare il Sacro Graal. Quello che si cercava di fare era mettere insieme tutti i beni in un modo o nell'altro per ottenere una AAA e un alto rendimento. Così Wall Street scopre i rendimenti nel finanziare il sogno americano. Dopo aver raccorpato i prestiti delle aziende, le banche iniziano ad accorpare anche i mutui. Potevi comprare enormi pacchetti di mutui. I credit default swap ti consentivano di mettere tutto in un unico calderone, di mischiarlo e combinarlo a dovere e di creare così questi prodotti. Le banche sparpagliano i dollari che investono in tutto il paese, soprattutto negli stati che hanno sempre avuto alti livelli di crescita demografica, come Florida, Nevada, California e Georgia. Quello di Atlanta era uno dei mercati più caldi del paese, la regione di Atlanta. Roy Barnes è l'ex governatore della Georgia. Alla fine di quest'ultimo secolo la Georgia era il quarto stato con la crescita più alta e più rapida di quelli a est del Mississippi. Era quindi un mercato molto dinamico. Eletto nel 1998, Barnes è famoso per essersi opposto a Wall Street e ai prestiti subprime, un mercato che era sempre stato evitato. Negli anni Ottanta non c'era posto per i subprime, nessuno li voleva. Le banche non li compravano perché erano più rischiosi. L'interesse per i subprime è cambiato radicalmente quando è stato possibile cartolarizzarli e venderli a Wall Street. Li dividevano in tranche e poi li confezionavano, in modo da poter essere messi insieme e avere un rendimento totale più alto. Quasi la metà di tutte le nuove costruzioni per l'edilizia familiare è nel sud, più di 50.000 al mese. E ovviamente Moody's dice tripla A. Era una specie di bulimia, una fame incontrollata di mutui subprime. Bastava passare vicino a una banca per ritrovarsi tra le mani un mutuo. Ma quello che le banche di Wall Street non vedono o non vogliono vedere sono gli effetti sulla vita reale da un capo all'altro degli Stati Uniti. Un'ondata di abusi sui crediti. Venivano concessi mutui a gente che non aveva reddito. Con la storia della crisi di Wall Street riprendiamo dopo la pubblicità. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Mix 24, i gialli della storia. Siete ancora all'ascolto di Mix 24. Oggi stiamo raccontando le origini della crisi finanziaria partita negli Stati Uniti nel 2008. L'idea di capitalizzare i derivati è nata da un gruppo di giovani trader della JP Morgan ed è stato presto abbracciato dalle banche, che così possono operare in un settore che non ha quasi controlli. La spacchettatura del debito provoca in tutti gli Stati Uniti un ricorso esagerato verso i mutui per l'acquisto di abitazioni con interessi spesso esorbitanti. E i pochi tentativi di bloccare questa infernale spirale vengono affrontati con durezza dalle banche. Con i tassi di interesse alti, i punti sono alti, quindi ci sono penali per l'estinzione anticipata. E quando hai delle rate finali molto elevate e mutui con tassi rinegoziabili, quando combini tutto questo con tassi di interesse alti, il prestito diviene predatorio. I difensori del settore immobiliare se la prendono con gli istituti creditizi predatori. La gente viene ingannata e si ritrova ad avere più soldi di quanto avrebbe mai immaginato. Ma la battaglia più aspra si combatte in Georgia. Il governatore Barnes e altre persone stanno facendo un estremo tentativo per la cosiddetta legge per l'eco mutuo. La reazione degli istituti di credito e delle banche è immediata. Nessuna di queste persone ha idea di cosa stia succedendo. Nessuno qui sa come funziona il settore e non ci hanno fatto parlare. Si potrebbe pensare che la mia proposta fosse di opporsi al piano di salvataggio. Perché osteggiavano tanto quel disegno? Per denaro. Solo per denaro. Questo disegno di legge paralizzerà il mercato dei mutui, le compravendite delle case e distruggerà il mercato immobiliare della Georgia, ve lo assicuro. Gli abitanti della Georgia rischiavano di non poter più accendere un mutuo perché non ci sarebbero stati più investitori disposti ad acquistarli. Se le cose fossero andate così, in Georgia nessuna banca avrebbe più concesso prestiti. Malgrado gli sforzi delle lobby dei mutui, la legge viene approvata. Nel timore che possa essere approvata anche altrove, le lobby ostacolano la rielezione di Barnes per far abrogare la legge. Dopo la sconfitta del governatore Barnes a novembre, una priorità del nuovo governatore è stata abrogare la legge per l'equo mutuo. Mi pare che appena due settimane dopo il suo insediamento, la legge non fosse già più in vigore. Nessun rallentamento del boom immobiliare è positivo per l'economia. Nell'ultimo mese le case si sono vendute in un batter d'occhio. Le grosse banche continuano a confezionare e vendere sempre più portafogli di mutui. E sempre più CDO contengono un alto rischio di debito subprime. Per non perdere il rating delle agenzie, vengono venduti altri credit default swap. Supponiamo di avere un paniere di mutui. Io ho 1000 mutui dalla California e li voglio mettere insieme. Ma a un certo punto decido che alcuni potrebbero essere subprime e voglio comprare un'assicurazione contro il rischio di insolvenza. Così facendo migliorerebbe il profilo del suo CDO per poi poterlo vendere meglio. Esatto. E posso anche ottenere un rating. Posso andare da Moody's e dire: su questo portafoglio ho abbattuto il rischio del 2%. È possibile avere un rating migliore di quanto sarebbe se vendessi il paniere così com'è? Quindi si mette insieme un sacco di spazzatura. Orribile spazzatura. Un sacco di mutui che nessuno pagherà. Ma si fa in modo di assicurarla e si convincono le agenzie di credito a dire che è una buona idea. La vendita di nuove case è salita del 13% rispetto all'anno passato, mentre per le case già esistenti si è attestata al 4,5%. Il gruppo della JP Morgan si diletta anche in debito ipotecario, senza però avere la certezza che sia la cosa giusta da fare. Trattavamo mutui. Nei nostri portafogli ne avevamo diversi. Di sicuro conoscevamo bene il mercato dei titoli garantiti dai mutui ipotecari. Ma non riuscivamo a sentirci tranquilli con quel rischio. Il grosso blocco per noi erano i dati. Negli anni avevamo accumulato tutto lo storico sull'andamento delle società durante i vari cicli economici, ma non avevamo dati sufficienti sull'andamento dei mutui al dettaglio durante i vari cicli. Sapevamo quanto denaro la gente diceva di fare. Vedevamo che la UBS e la Merrill Lynch avevano prodotti cartolarizzati con rendimenti che crescevano più rapidamente dei nostri. Così ci siamo chiesti: dove sbagliamo? Cosa non abbiamo capito? Non abbiamo trovato il modo di scaricare parte del rischio? Non riuscivamo a capire. Non avremmo mai immaginato che quelle società non stavano facendo niente di particolare. Si erano accollati il rischio e aspettavano. In ottobre, le vendite di nuove abitazioni... Dopo che quel primo gruppo della JP Morgan aveva avuto quelle idee originali negli anni 90, le altre banche, vedendo le conseguenze di quella trovata, hanno preso a prestito le stesse idee e le hanno messe in pratica in modo inaspettato. E alcuni di loro hanno iniziato a preoccuparsi. Stavamo per concludere una transazione. Eravamo in audioconferenza con altri uffici nel mondo e discutevamo di un rischio di cui avevamo già parlato e riparlato a lungo. Alla fine qualcuno è intervenuto dicendo: sono preoccupato. Il doppio delle persone che comprano casa accendono un enorme aumento nelle vendite immobiliari. Abbiamo quasi smesso di pensare e ci siamo fermati a rivalutare il rischio. Ed un tratto abbiamo scoperto di avere tra le mani un prodotto immensamente diverso da quello con cui avevamo iniziato. Qualunque modifica ci fosse stata durante tutto quel processo, noi dicevamo sempre: va bene, va bene, va bene. E poi all'improvviso ci siamo accorti che invece non andava affatto bene. Il mondo si trova ancora a dover fare i conti con una serie di problemi irrisolti. Nessuna altra banca agisce con tanta cautela. Tutte hanno venduto in modo aggressivo CDO subprime a clienti di tutto il mondo. Londra diventa il secondo polo delle loro operazioni di trading e di compravendita. Il mercato azionario è in rialzo e le statistiche economiche... Londra ha svolto il suo onorato servizio creando alcune delle strutture più pericolose e lo ha fatto fuori dagli Stati Uniti. Non erano transazioni approvate dalla Commissione di controllo della borsa americana, erano private e dunque non regolamentate. La Landesbank, un gruppo di banche statali tedesche, è tra i clienti più importanti. Desiree Fixler, che all'epoca lavorava alla JP Morgan, dice di essere rimasta molto colpita dall'appetito che queste banche avevano per i mutui subprime. Sapevamo che un gruppo centrale di banche tedesche era disposto a comprare qualunque cosa. Eravamo convinti che fossero degli ingenui. Eravamo stupiti del fatto che si sarebbero comprati un prodotto come quello. Chiunque si occupasse di vendite era invidioso dei colleghi che coprivano la Landesbank e l'IKB, perché significava avere tra le mani uno tra i clienti più attivi a livello mondiale. Avere un cliente del genere significava riuscire a produrre un enorme margine di profitto. Erano dei forti compratori. La multinazionale Deutsche Bank conclude vari affari con l'IKB. All'epoca pensavate che i vostri prodotti fossero d'aiuto all'IKB? Che fossero prodotti buoni da comprare? Assolutamente sì, altrimenti non avremmo strutturato e venduto quei prodotti a loro. Eravate rialzisti sui mutui subprime negli Stati Uniti? Eravamo rialzisti sul mercato ipotecario in generale e sui subprime che ne facevano parte. Non eravamo eccessivamente aggressivi, ma eravamo parte di quel mercato, assolutamente. Gli americani stanno comprando proprietà immobiliari a ritmi da record. La domanda ha portato... Alla fine del 2005 il valore totale insoluto dei credit default swap di tutto il mondo ammonta a milioni di miliardi di dollari e raddoppia di anno in anno. Le vendite delle case già esistenti sono aumentate del 4.5%. L'alta dirigenza della JP Morgan capiva i derivati sul credito? Sì, certo che li capiva. E nelle altre banche? No, non in tutte le altre banche. E gli organi di controllo li capivano? Non credo che gli organi di controllo li capissero. Le agenzie di rating creditizio, i banchieri o gli organi di controllo non capivano tutti i vari tipi di strumenti creditizi di cui stiamo parlando. In altre parole, alcune grosse banche semplicemente non conoscevano il rischio che avevano. No, di certo, non conoscevano alcune forme di rischio che avevano, è così. I prezzi delle case continuano a salire vertiginosamente. Le banche continuano a confezionare CDO. Sulla carta non esistono limiti. Un investitore non ha bisogno di possedere alcuna ipoteca reale. I cosiddetti CDO sintetici consentono agli investitori di scommettere più volte sul portafoglio di debito di qualcun altro. Hanno consentito ai partecipanti di comprare o vendere e perciò da qualunque parte del mercato si collocassero, di prendere posizione senza essere frenati dalle dimensioni del mercato di fondo. Nei CDO sintetici bisognava fare una scommessa tramite terzi su quello che sarebbe successo a quel paniere di mutui e far sì che questa scommessa diventasse la base del CDO. Il fatto che qualcuno lo avesse già fatto non impediva a qualcun altro di fare altrettanto più e più volte. Ma allora che differenza c'è se faccio una puntata sul risultato del Super Bowl? O su una corsa di cavalli o ai dadi? Assolutamente nessuna. È una scommessa pura e semplice da parte di qualcuno che non ha alcun interesse economico in quello su cui sta scommettendo. Le nuove abitazioni vengono vendute a tassi che sono... Stiamo assistendo al boom del settore immobiliare. I prezzi aumentano a ritmi sostenibili. Si aspetta che quest'anno verranno distribuiti 36 miliardi di dollari di bonus. Tutti gioivano, sembrava un'idea straordinaria. La combinazione di mercati liberi, innovazione e globalizzazione sembrava aver creato il cocktail inebriante della crescita a dismisura. I dirigenti guadagneranno dai 20 ai 50 milioni di dollari. Tra il 2003 e il 2006, Dick Kovacevic, amministratore delegato della Wells Fargo, partecipa a numerose riunioni con banche e organi regolatori. A queste riunioni c'erano i rappresentanti degli organi regolatori, come il presidente della Fed, Bernanke, e 30 o 40 banchieri. E spesso accadeva che giravano per la stanza dicendo: che cosa vedete giorno dopo giorno? Cos'è che funziona? Siete preoccupati per il settore immobiliare? E cercavano di farsi dare delle notizie. E quando poi venivano da me, io dicevo: questi sono rifiuti tossici, stiamo costruendo una bolla e le conseguenze non saranno un bello spettacolo. E che cosa le hanno risposto i colleghi delle banche quando lei ha detto che quella roba le sembrava tossica? Chi trattava quei prodotti mi ha risposto che avevo torto, che tutto era a posto e che secondo loro non ci sarebbero state perdite. Mentre noi vedevamo rischi dovunque. A Wall Street risuona tutta una serie di vecchi adagi su chi si assumerà il rischio. Andando in giro ci si accorge che ci sono due scuole di pensiero. Una sostiene che il rischio verrà assunto dai più intelligenti, quelli che ne capiscono di più. L'altra dice che sarà assunto dagli stupidi, quelli che ne capiscono di meno. Dalla mia esperienza e da quello che ho visto accadere in questi anni sul mercato dei derivati, propendo per la seconda teoria. Mi affascinava vedere l'interesse da parte degli investitori per un prodotto che era altamente complesso e per di più estremamente rischioso. Mi faccia capire, lei era in prima linea. Ha avuto lei l'idea della divisione. E sopra ci ha strutturato i crediti default swap e adesso tutti vogliono prendere parte al gioco. Vogliono tutti fare lo stesso. Ma il suo gruppo ha deciso di smettere. Perché sono ancora in tanti a camminare verso l'orlo del baratro? Allora, è molto semplice. Ci sono alcuni investitori, alcune banche, alcuni debitori che sono più avidi di quanto dovrebbero essere. Lloyd Blankfein della Goldman Sachs prenderà 53 milioni di dollari. Nessuno vuole che la festa finisca. La maggior parte delle banche è convinta che i prezzi delle case non solo non scenderanno mai, ma nemmeno crolleranno. Immaginare perdite di quell'entità presupponeva delle ipotesi molto significative sul percorso economico, ipotesi che non venivano contemplate da nessuno. Bisognava quindi considerare l'eventualità che i prezzi delle case negli Stati Uniti potessero diminuire del 25%. Nessuno vedeva le cose in quel modo e finché i prezzi delle case non scendevano, erano rischi che non avevano effetti negativi sul presente. E questa ovviamente era una logica sbagliata. L'aumento dei tassi di interesse all'inizio dell'anno, le vendite immobiliari hanno subito un rallentamento e dopo anni di incrementi record, ora i prezzi sono al massimo storico. Il costo dei prestiti è in aumento. Alla fine del 2006 i nodi iniziano a venire al pettine. Quando i prezzi degli immobili cominciano a scendere, sono in pochi a vedere la bolla nella quale sono intrappolati. Il mercato immobiliare ha trasformato alcuni mutui in vere e proprie bombe a orologeria. Nel 2007-2008 gli addetti ai lavori sanno che il gioco è finito e che tutte le banche hanno provato a riconfezionare rapidamente i prodotti che costituivano un impedimento per toglierli al più presto dal proprio portafoglio. Ma era in arrivo un secondo movimento parallelo, il cui obiettivo era trovare la maniera di approfittare di tutto questo. Il Dow Jones sembra in caduta libera, chiudendo la giornata in ribasso. Una delle banche di Wall Street che cerca di approfittare del mercato in declino è la Goldman Sachs. Secondo un'indagine del Congresso, la banca avrebbe creato una serie di CDO contenenti subprime tossici per poi venderli ai clienti. Alla Goldman Sachs ci distinguiamo per la nostra abilità di fare le cose per conto dei nostri clienti. Mentre la banca stessa scommette contro di loro utilizzando i credit default swap. Scommettevano contro i loro stessi clienti, perciò quando quei clienti perdevano denaro, la Goldman lo guadagnava. Lo slogan della Goldman è il cliente prima di tutto. Ma è una bugia, almeno per quel che riguarda queste transazioni. Era la Goldman a venire prima, seconda e anche terza. Penso sia stata l'unica grossa banca a guadagnarci quando la bolla immobiliare stava scoppiando. In un rapporto alla Commissione di controllo della Borsa americana, la Goldman ammette che alcune delle sue note informative non forniscono informazioni trasparenti, ma dichiara anche che i suoi investitori sono istituzioni altamente sofisticate. 34 istituti creditizi sono falliti. Uno di quei clienti è la Landesbank tedesca. Gli analisti sostengono che chiunque abbia a che fare con il mercato dei subprime pagherà lo scotto. Luglio 2007. La banca tedesca IKB, imbottita di subprime, è la prima a fallire. Centinaia di migliaia di proprietari di case sono inadempienti con i pagamenti del mutuo. La crisi sta per rimbalzare su Wall Street. È solo questione di tempo. Sapevamo che la bolla immobiliare era scoppiata, ma ci avevano rassicurato che il problema era stato contenuto. All'inizio del 2008, però, fu evidente che si trattava di un problema infinitamente più grande di quanto ci si aspettasse. In generale, la percezione del rischio che si correva nel mercato immobiliare veniva sottovalutata. Credere che si potesse avere un decremento regionale nei prezzi delle case senza arrivare a un declino nazionale si è rivelato imperdonabile. Quella trascorsa è stata una settimana molto difficile per il settore dei mutui. Si è parlato di problemi di fondi. È stato il titolo più scambiato. A New York le banche tentano di disfarsi di tutto il possibile. Ma c'è confusione. Alla Citigroup ci si affanna a vuoto. Una delle cose più incredibili che oggi sappiamo di Citigroup è che nonostante li stesse eliminando dai propri bilanci, quei rischi poi tornavano come un boomerang. Senza rendersene conto, avevano impostato un sistema per liberarsi del rischio che ha prodotto l'effetto contrario, riportando quei rischi nel bilancio. Era abbastanza chiaro che un bel po' di grossi istituti finanziari non avevano i sistemi informativi di gestione che consentissero di sapere quali fossero i loro rischi. E questo la stupiva? Sì, ne ero sorpreso. La creazione dei prestiti subprime, la creazione dei CDO, questo giro d'affari è finito. E tutti quei crediti. La responsabilità viene attribuita ai credit default swap. Perché non rendono come dovrebbero? Sappiamo da sempre che le banche sono vulnerabili sul piano della liquidità. Le banche non funzionerebbero se tutti prelevassero i soldi nello stesso momento. Merrill Lynch, devastata dalle perdite. Hanno iniziato a esaminare meglio l'AIG, la maggiore compagnia assicurativa del mondo. Questa volta tocca una compagnia assicurativa. L'AIG è in trappola per via di alcuni credit default swap del valore di 440 miliardi di dollari. Il 18 settembre 2008 ero in riunione con i miei direttori. Di norma nessuno legge mai il BlackBerry durante le riunioni, ma più mi guardavo intorno più vedevo che era proprio questo che molti facevano. Così ho preso da parte uno di loro e gli ho detto: avete un'aria, sembra la fine del mondo. E lui, temo che lo sia. La gravità della situazione, quasi un olocausto nucleare. Circa 400 miliardi di credit default swap, un altro salvataggio da parte del governo. AIG si assicura 85 miliardi di dollari. AIG non avrebbe mai potuto ripagare tutti quei derivati sul credito perché aveva frainteso i rischi e non aveva quello che noi definiamo un portafoglio bilanciato o capitale sufficiente per coprire le proprie perdite. Voi lo sapevate che l'AIG aveva un sacco di crediti default swap? No, non c'era stata alcuna nota informativa. Era tutto qui il problema. Era una specie di gioco delle tre carte, in cui i risultati delle banche venivano manipolati per far uscire il rischio da una parte e farlo rientrare nel sistema bancario dall'altra. Il rischio non usciva mai dal sistema. E tutti, in tutto il mondo, erano collegati gli uni agli altri attraverso queste catene di rischi. Quando un anello di questa catena si rompe, perché qualcuno non può onorare il contratto, l'intero sistema implode. L'idea che anni prima un gruppo di giovani bancari della JP Morgan ha escogitato durante un fine settimana avrebbe dovuto ridurre il rischio. Avevano preso l'idea iniziale e l'avevano trasformata in una specie di Frankenstein. Non avrebbero mai immaginato che assumesse tali proporzioni e che sfuggisse a ogni controllo. È stato un momento di estrema paura. Eravamo in un territorio assolutamente nuovo e la possibilità che la Lehman Brothers potesse dichiarare bancarotta e che l'AIG potesse rischiare lo stesso destino era assolutamente senza precedenti. Le implicazioni, pensare alle implicazioni che avrebbero potuto colpire non solo la salute dell'economia statunitense ma del mondo intero, era inconcepibile. Non l'avevamo previsto, non l'abbiamo mai previsto e di questo ero piuttosto contrariata, terribilmente contrariata. Ero parte di un mercato che pensavo stesse facendo la cosa giusta. Sarò anche stata idealista, giovane, forse non riuscivo a rendermi conto di dove stessimo andando, ma avevamo messo su un intero sistema, dal sottoscrittore del mutuo fino all'investitore. C'era un intero sistema di persone che forse chiudevano un occhio, o forse stavano, non lo so, di sicuro è frustrante. Non sarebbe dovuto accadere. In passato le nostre crisi finanziarie erano in gran parte dovute ad alcuni eventi macroeconomici, mancanza di combustibili oppure guerre. Questa è stata provocata da alcuni istituti, circa 20, che secondo me hanno perso tutta la loro credibilità per quel che riguarda la gestione del loro rischio. Gli organi direttivi avrebbero dovuto fermare tutto prima che diventasse troppo grande e adesso la gente soffre per qualcosa che non sarebbe mai dovuto succedere. Oggi le conseguenze si avvertono soprattutto dove la crescita ha toccato i picchi maggiori, come la Georgia. Il ground zero della crisi dei subprime. Interi quartieri, strade. Le città di tutti gli Stati Uniti stanno assistendo a un aumento delle proprietà sfitte o abbandonate. E nei quartieri questo si percepisce. Noi abitanti del vicinato non siamo preoccupati tanto delle complessità del mercato dei mutui subprime e dei derivati. Di quella roba capiremo sempre poco. Quello che più ci preoccupa è il fatto che la casa accanto alla nostra è vuota, abbandonata, mezzo andata a fuoco e ci chiediamo quanto tempo rimarrà ancora lì. E capita di non sapere neanche a chi appartengano quelle proprietà. È difficile sapere chi sia il proprietario perché è stato ripartito in così tanti modi dagli investitori che potrebbe trovarsi persino in Irlanda. Hanno creato quei panieri cartolarizzati nei quali gli investitori hanno suddiviso le proprietà in parti diverse. Investitori di tutto il mondo. Quella diventa così terra di nessuno, una proprietà vuota, per lo più oggetto di vandalismi, che sta lì, senza che noi possiamo farci niente. Di casi così nel vicinato ce ne sono ormai a centinaia. Quella casa ha un mutuo finito chissà dove, in una enorme macchina finanziaria assemblata da una manciata di giovani vandali a Wall Street. Quel mutuo si è perso in un pacchetto da $1 miliardo, perché nessuno ha avuto l'incarico di controllarlo. E come questa sono state fatte molte altre suddivisioni analoghe, anch'esse perse in quell'enorme giungla. A farne le spese è il cittadino comune, perché Wall Street ha peccato di ingordigia. L'avidità di Wall Street ha spezzato le reni ai cittadini. Con la storia della crisi economica di Wall Street del 2008, continuiamo domani, sempre su Radio 24. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix 24 sul sito www.radio24.it.